decidi che colore sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. Buonasera a tutti cari amici radioascoltatori di Radio Alma. Siamo in onda oggi 8 settembre 2013 dalla Maison de Culture de Saint-Gilles e oggi abbiamo una nuova puntata tutta frizzante, tutta speciale. Con me in regia. Tutti ragazzi, ciao da Leandro e da Tiziana, buonasera Bruxelles. E fammelo dire a me, ciao, scusa. Ecco, non le persone non ci credono che non sono qua pure io. C'è pure lei stasera qua in regia. Eccoci ragazzi, ci siamo tutti con voi, speriamo di offrirvi una bella puntata anche stasera. Allora, innanzitutto vorremmo prendere l'occasione per scusarci per la puntata del 9 settembre, sappiamo che molti di voi hanno provato ad ascoltarci dall'Italia, però purtroppo ci sono stati dei problemi in streaming, quindi non si sentiva la puntata su streaming, internet non funzionava bene, ci dispiace, ma grazie per averci fatto sentire il vostro calore nonostante tutto. E in più, Rossella, la puntata purtroppo non è stata neppure registrata, quindi non l'abbiamo neppure potuta mettere sul sito dei colori dell'anima. Purtroppo ve la rifaremo. Ve la dovremmo riproporre sotto altra forma. And Casper gonna come again. Alright, benissimo. Ma ricordiamo subito i numeri di telefono per chi volesse contattarci. Dunque, il numero di telefono da Bruxelles è lo 02 345 2656, o ancora un SMS al numero 0486941129, o mi raccomando, abbiamo una pagina Facebook, Rossella, Tiziana e Leandro Neir, collegatevi e fateci sentire che ci siete anche stasera, ragazzi. Sì, dai, fatevi sentire, abbiamo bisogno di interagire con voi, abbiamo bisogno di avere i vostri feedback. Sì, infatti sì. Rossella, allora, innanzitutto le persone devono interagire, però devono sapere su che cosa interagire. Di che cosa parleremo in questa puntata? Sarà anche una puntata specialissima. Perché Leandro, ora che mi hai interrotto, continua tu. Intanto perché abbiamo dei super ospiti, ragazzi, dei super ospiti. E perché questa sera parleremo di un viaggio davvero speciale, ragazzi. Sì, sì, un viaggio particolare, un viaggio sui generis. E, di cosa parliamo, Rossella? Affrontiamo un argomento molto carino questa sera, secondo me. Parliamo di questo percorso che si può fare, che a volte la gente sente il bisogno di fare, o anche senza sentire il bisogno è curioso di fare, un viaggio un po' speciale, magari cercando di incontrare una persona a cui si possa dare un po' dell'aiuto, e molto spesso da quelle stesse persone si riceve molto in cambio, quindi un po' dei viaggi di volontariato, di volontari che accompagnano persone che magari autonomamente non potrebbero svolgere questi viaggi, o pellegrinaggi ad esempio. Quindi parliamo di un aspetto dell'anima un po' molto sottile, molto particolare, perché ricordiamo che questa puntata, che questa trasmissione si chiama appunto I colori dell'anima. Tiziana, perché si chiama I colori dell'anima? Tu lo so, lo sento, me lo vuoi dire? Sì, infatti, ti stavo per interrompere. Si chiama I colori dell'anima perché è stata pensata per dare voce ai diversi aspetti che può avere l'anima umana. Noi in particolare pensiamo all'anima degli italiani, però vale per tutti gli esseri umani. E pensiamo che ogni aspetto può avere un colore differente, può avere differenti sfumature, e ognuno di noi può raccontare ogni volta la sua esperienza raccontando qualcosa di sé, raccontando e mettendo in luce un aspetto della propria anima. E questa volta pensavamo che sarebbe interessante far vedere qual è l'aspetto, mettere in luce l'aspetto dell'anima di una persona che vuole aiutare gli altri. Cosa può nascere, che desiderio può nascere dentro il cuore di una persona che vuole aiutare gli altri. Mi piace, Tiziana, dici proprio bene, perché sì, in fondo parliamone ogni tanto, è bello questo aspetto dell'anima umana, il volersi sentire un po' utili in fondo, e magari andare in cerca di qualcosa, no? O magari di qualcuno un po' speciale. È vero, infatti vogliamo lanciare come prima canzone One of Us, una canzone interpretata da John Osborne, e il titolo della canzone, One of Us, uno di noi, proviene dal ritornello. E se Dio fosse uno di noi? Ta-ta-ta! Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci in studio, cari amici di Radio Alma. Speriamo che vi sia piaciuta questa canzone. A noi ci è venuto un brividino lungo la schiena. Quindi ricordiamo un attimo i numeri di telefono ancora una volta. Mettetevi in contatto con noi. Dimenticato poc'anzi il prefisso per il Belgio, ragazzi. 0032 se chiamate dall'Italia. Altrimenti evitate il prefisso. Quindi 02 3452 656, o ancora la pagina Facebook Rossella Tiziana e Leandro On Air. Collegatevi. E in realtà ci sono già degli amici. Salutiamo Giuseppe Riggio, Maria Campo, Vito e Marco, che ci ascoltano e ci dicono: siete in gamba, ragazzi, forza! E Rossella, non dimentichiamoci che oltre a scriverci sulla pagina Facebook possono anche mandarci messaggi sul numero 0486 941129. Dai ragazzi, fatevi sentire su anche questo numero belga, quindi 0032 come prefisso, naturalmente. Ecco, diamo un po' i numeri questa sera. Bene, bene, ma ecco, ritorniamo un po' alla tematica della quale stavamo parlando, no? Quindi dicevamo che vogliamo parlare un po' di questi viaggi un po' particolari, un po' curiosi, verso mete che non ci si pensa tutti i giorni, no? Viaggi fatti non per se stessi, ma alla ricerca di qualcosa, per aiutare qualcuno, per gli altri. Esattamente, e abbiamo in studio qui due ospiti. Ma che dico due ospiti? Due ospitoni, si dice due ospitoni? Due ospitissimi. Due ospitissimi. Abbiamo con noi Giampaolo. Ciao a tutti. E Cecilia. Buonasera. Wow, ragazzi. Sì. Ciao Rossella, grazie di averci invitato. Grazie a voi per essere venuti, veramente. Perché dovete sapere che Giampaolo e Cecilia hanno fatto esperienza di questo viaggio un po' particolare, sotto due punti di vista diversi. Quindi Giampaolo è stato sui treni dei volontari che accompagnano gli ammalati, i poco abili, le persone poco autonome verso Lourdes. Invece dall'altro lato abbiamo Cecilia, che su questi treni c'è stata ed ha fatto esperienza di questo altruismo umano, ecco. Dunque, Giampaolo, cominciaci ad illustrare, perché dovete sapere, Giampaolo è una montagna di conoscenza, di cose. Allora, dici la tua esperienza da di Piero escort. Angela di Radio Alma. Eccolo. Com'è a Giampaolo come escort? Beh, damaggi, l'accompagnatore. No, innanzitutto vi volevo ringraziare. Intanto vi dico, ragazzi, che è veramente divertente essere qua dall'altro lato. Esatto. Perché veramente mi sto divertendo un mondo a guardarvi là, armeggiare con regie. Perché con, diciamolo, Giampaolo non è nuovo di questa radio. I più fedeli dei colori dell'anima, secondo me, hanno riconosciuto questa voce. Chiaramente. Di solito Giampaolo è uno di quelli che conduce, è uno di... fa parte di uno dei gruppi dei colori dell'anima. Esatto. E noi salutiamo. Ciao Angelo, ciao Carla. Ciao ragazzi. E aggiungerei che Giampaolo è stato anche un mio maestro con Carla, quindi si invertono i ruoli. Adesso la gente dirà: ma questo sta sempre là in radio, non sai più. Sì, alla tenda qui fuori, lo confermo, ma non c'è problema. Sì. Non ha che fare. Si fa pure crescere la barba così, insomma, sembra uno tranquillo così. Non lo nota nessuno. No, grazie, ecco. Grazie mille di avermi chiamato invece a parlare di questa cosa. È una cosa che a me sta molto a cuore, perché il volontariato e la mia esperienza all'interno dell'Unitalsi comunque per me è stato una grossa fetta di vita, è un qualcosa che, anche se per delle ragioni comunque tecniche di forza maggiore, adesso non faccio più, perché mi sono trasferito, vivo a Bruxelles, quindi non riesco, per la distanza non riesco più a partecipare alle attività unitalziane, però è qualcosa che mi è rimasto dentro e mi ha lasciato dentro un vuoto, perché era diventato veramente parte della mia vita. Gianpaolo, dici subito, perché noi sappiamo, perché ci hai raccontato, che cos'è l'Unitalsi, diamo un attimo un accenno a che cos'è questa organizzazione. Sì, molto brevemente. Allora, l'Unitalsi è un'associazione cattolica, prima di tutto, quindi è un'associazione religiosa di volontariato, che nasce molti anni fa per, diciamo, con lo scopo principale iniziale, poi ovviamente non si è fermata solo a questo, però di accompagnare gli ammalati e le persone disabili anche nei pellegrinaggi internazionali. La prima meta storica è stata proprio Lourdes, e devo dire che l'Unitalsi nasce un po' caratterialmente come un tipo di volontariato per persone aristocratiche, nobiliari, quindi è un tipo di volontariato che veniva svolto da persone molto benestanti. Ah, molto interessante questa cosa. Che si dedicavano proprio al trasporto, veniva volgermente detto. Adesso oggi forse sembrerebbe un po' un'espressione che stona un po', però diciamo ad accompagnare queste persone che diversamente non avrebbero potuto svolgere quei viaggi spirituali che erano i pellegrinaggi, che tuttora hanno rappresentato, diciamo, una parte importante della vita cristiana, della vita cattolica. Certo. E l'Unitalsi ha sempre continuato a fare questa cosa, poi allargandosi ad altre attività, perché adesso l'Unitalsi è, diciamo, spara, è un'organizzazione che è sparsa un po' in tutto il territorio nazionale, in Italia, organizzata in sezioni e sottosezioni. Okay. E praticamente c'è una vita interna di sezioni e di sottosezioni, con degli eventi locali, con delle, diciamo, con tutta una serie, un calendario di attività locali, che poi durante l'anno culmina anche con il viaggio del treno bianco a Lourdes, che è la cosa che ha reso questa associazione famosa, che è più la cosa più caratteristica, la cosa più importante di questa associazione, diciamo. Ma dici un po', perché sappiamo bene che avremo una telefonata a breve, tra un po', con una persona che è una veterana dell'Unitalsi, ecco, diciamocelo. Quindi continueremo a chiedere a lei altre informazioni, però ecco, mi piaceva sottolineare questa cosa bella che hai detto, che appunto è stata una fetta importante, un percorso importante della tua vita, che per il momento non riesci a fare perché sei a Bruxelles, ma magari vedremo se possiamo provare a farlo da Bruxelles. Che ne dici? Magari vediamo un po'. Magari poi chiediamo a Cecilia c'ha delle informazioni, io la vedo, sospetta lì con l'occhiolino. Non so, confermami Gianpaolo, io non l'ho mai fatto questo viaggio, anche se mi piacerebbe tanto farlo, ma credo che nel momento in cui lo fai la prima volta non te lo scordi più e ci vuoi anche tornare. Sempre. Guarda, assolutamente sì, il mio primo viaggio a Lourdes, il mio primo viaggio sul treno bianco, è qualcosa che non dimenticherò mai, per le emozioni forti che mi ha regalato, per le esperienze che mi ha fatto fare sia durante il viaggio sia poi nella riflessione dopo essere ritornato a casa, ripensando a tutti i momenti intensi che ho vissuto. E ha fatto scattare me, io ero partito per curiosità. Ero partito per curiosità, invitato da amici, e mentre ero in viaggio è scattato in me il desiderio di voler ritornare ogni anno, di voler continuare assiduamente con quell'attività. Però dentro di me, forse perché sono una persona comunque molto razionale, ripetevo nella mia testa, vabbè, però magari adesso c'è il momento dell'emozione, chissà, magari fra qualche mese, chissà, magari l'anno prossimo, l'estate prossima, cosa faccio, cosa non... E invece no, è qualcosa che è durato, e quando poi la mente si è raffreddata, quando poi, diciamo, le emozioni a caldo erano un po' svanite, il mio proposito di voler ritornare, di voler continuare a fare quell'attività era ancora più forte di prima, è rimasto ed era molto più forte. E il treno, per il volontario unitalziano, il treno è qualcosa di magico. Wow. E l'esperienza Lourdes è molto bella, non la voglio sminuire, però probabilmente molti unitalsiani direbbero che la parte più bella del pellegrinaggio è il treno. Grazie Gianpaolo per questa introduzione a questo tema molto bello. E adesso, ragazzi, vi lasciamo con una bella canzone di Daniele Silvestri, Il bisogno di te, che mettiamo per un carissimo radioascoltatore Andrea, che ci ha chiamato in studio il 9 settembre, non dimentichiamo. Ciao Andrea! E ci ha chiesto una canzone di Daniele. E vai! Che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci in diretta, cari amici radioascoltatori, su Radio Alma 101.9. E abbiamo sentito questa bella canzone per Andrea e mi fanno segno della regia. Eh sì, ragazzi, qua c'è in onda? In onda dall'Italia, Marzia! Ciao Marzia, ci senti? Ciao, ciao a tutti, vi sento benissimo, grazie mille per l'invito. Marzia, ma io so che conosci qualcuno qua dentro. Sì, e faccio un carissimo abbraccio a Giampaolo, che non vedo da tanto tempo, ma risento con grande piacere. Ciao Marzia, ciao, un abbraccio grande anche a te. Ciao Marzia, benvenuta in trasmissione, grazie mille per aver ascoltato il nostro invito. Insomma, abbiamo avuto appunto il tuo contatto da Giampaolo, perché ci ha spiegato che sei una veterana dell'Unitalsi, ecco, dicevo prima. Beh, una volontaria, direi una volontaria che ha avuto appunto la fortuna di conoscere questa associazione e di farne parte ormai da qualche anno. Da sì. Qualche anno? Tra l'altro ha raccontato già benissimo tutto Giampaolo, quindi... No, ma chiaramente noi non avevamo dubbi che Giampaolo ci illustrasse per bene. Però abbiamo tante domande anche per te. Ad esempio, discutevamo con i ragazzi in studio. Come ti sei avvicinata a questa organizzazione? E soprattutto, appunto, qual è stata la tua esperienza da volontaria? Perché Lourdes è così speciale? Abbiamo tante domande, quindi pensa un po' tu da dove vuoi partire, ecco, come hai conosciuto l'organizzazione e come è stato questo volontariato e perché Lourdes? Dunque, io ho conosciuto l'associazione un po' anche per caso, sono stata coinvolta da una cara amica di famiglia e ho partecipato ad un'attività che l'Unitalsi organizzava in realtà in Italia, a Roma. La mia prima esperienza appunto è stata un'esperienza fatta qui in Italia. Da lì appunto il contatto con le persone in difficoltà, i diversamente abili, ma in realtà non soltanto loro, anche persone anziane che vivono in solitudine o comunque persone che hanno necessità di, sentono l'esigenza appunto di trovare un po' di compagnia, e da lì è continuato il mio percorso. Dopo qualche anno, devo dire, non subito, poi ho maturato questo desiderio di partire a Lourdes. Uh-huh. Ed è una cosa che ho avuto il piacere peraltro di condividere con Matteo, che oggi è mio marito e che mi accompagna in questo percorso. Ah, bene, bene, bello, che bello. Quindi praticamente ha fatto nascere questa esperienza di vita, questa esperienza di altruismo. Poi ti ha dato anche qualcosa di personale. Almeno così che dice un uccellino, eh? Marzia, sì, qua ma si fa curtiggio in radio. Sì, devo dire che per me è stata una... Sì, mi ha chiaramente portato anche una cosa che poi ha cambiato la mia vita e segnato in maniera meravigliosa la mia vita. Però ecco, poi ti fa incontrare tantissimi amici. Diciamo che quando vivi un'esperienza come quella di Lourdes, poi chiaramente ti senti legato in qualche modo con le persone che incontri lì, con anche gli altri volontari, con i pellegrini che ogni anno vanno a visitare questo posto. C'è una frase che secondo me, che peraltro è la frase che fa parte dell'inno unitalsiano Treni Bianchi, che esprime chiaramente poi l'esperienza che si prova lì, e dice esattamente: mai nessuno torna a casa uguale a prima di partire. Perché qualcosa cambia, sia per appunto l'atmosfera che si respira in quel posto. Si sente davvero che la Madonna è stata lì e ci ha parlato e continua a parlarci. E poi per appunto questa particolarità lì, la disabilità è vissuta, ecco, come la cosa più normale che possa esistere, anzi tante volte è proprio una parola, che un sorriso, un grazie che ti arriva dall'altro, che poi ti arricchisce e ti cambia, ti fa tornare a casa con una serenità diversa. E infatti una cosa di cui ti vorremmo chiedere è questa, appunto, un volontario dà, ma che cosa riceve anche in cambio, se riceve qualcosa? Riceve moltissimo, sicuramente il dono, poi anche un piccolissimo gesto, una parola, una carezza, un sorriso. cambiano molto da appunto a te che da, tu ricevi mentre dai, questo sì sicuramente. Dall'altra parte ci sono tantissimi disabili che vanno lì da tanti anni e che magari poi si prendono a cuore tutti quei volontari che vanno lì per la prima volta e quindi guardano con stupore, curiosità quello che gli accade intorno. Ecco, ti trovi immerso in una realtà che poi è una realtà sana, una realtà che ti fa star bene, ecco. Sono tantissimi i momenti che io ricordo e che comunque hanno cambiato molto, li porto, cioè come dice Giampaolo, c'è una parte, una fetta appunto importante di quell'esperienza che fa parte della mia vita. Mi sembra ancora molto strano quando arrivi lì e ti rendi conto di avere davanti delle persone che forse non hanno nemmeno la tua stessa fede, che forse non credono in nulla, però sono lì alla ricerca di qualcosa e comunque la trovano. Cioè la disabilità non è soltanto fisica, a volte c'è anche una disabilità del cuore. E quindi si trova una risposta per le tante domande che uno ha dentro e a volte non sa neppure di avere. Ma me la dice una cosa invece, tu parlavi di tanti momenti che ti sono rimasti nel cuore, ma io ho voglia di sapere anche quali sono i momenti divertenti, i momenti che non ti saresti mai aspettato, una cosa che... Come si comporta Giampaolo? Vabbè, poi ce lo dici dopo. Qualcosa di divertente, qualcosa di veramente bello che ti ha dato gioia in una dei viaggi che hai fatto. Ci sono due aneddoti, uno carino, forse un po' più simpatico, e un altro più intenso. Quello più simpatico risale a qualche anno fa, durante un pellegrinaggio di cui credo facesse parte anche Giampaolo. Arrivammo col treno alla stazione di Roma Ostiense, chiaramente ci sono delle lunghe soste per cui qualcuno scende. Credo di aver capito qual è l'episodio. Esattamente, a un certo punto il treno ripartì, quindi fischiarono tutti, il treno ripartì, la gente salì di corsa e io affacciata al finestrino salutavo e guardavo insomma dall'altra parte, no? Perché poi quando passa questo treno tutti salutano alle stazioni con i fazzoletti bianchi, anche lì per questo il nome Treni Bianchi, e guardavo di fronte a me un ragazzo che aveva un'aria familiare, molto familiare. Ammetto che... no? Dunque, siccome io in realtà ho studiato a Roma per parecchi anni, lo guardavo cercando di ricollegare un attimo quel volto a un nome, pensando che fosse un collega di università, e invece ho focalizzato che era un ragazzo che stava sul treno lì con noi, che guardava il treno partire da solo senza di lui. Ecco, quella cosa ci ha fatto... Tra l'altro, Marzia, anch'io ero al finestrino, avevo un cartone di pizza in mano. Questo rendeva ancora più divertente questo dettaglio, però sì, in realtà sì. Marti era sceso per un buon motivo almeno, voleva un pezzo di pizza, dice, prima di andare a Lourdes a mangiare le patatine fritte dei francesi, un po' di pizza. Bella. Ecco, sì. Senti Marti, il ricordo più intenso risale all'ultimo pellegrinaggio che ho fatto lo scorso settembre. Ero lì con mio marito e avevamo un servizio, sostanzialmente accompagnavamo i pellegrini di tutte le nazionalità in giro per Lourdes a riscoprire la storia di Lourdes e la storia di Bernadette, insieme a noi faceva servizio un veterano, un italiano della Lombardia, per cui anche per curiosità gli chiesimo di portarci con lui come se noi fossimo i pellegrini. Ricordo che a un certo punto, arrivati dentro il cachot, che poi è una delle case, la seconda casa, ultima casa avuta da Bernadette, che è un posto molto molto triste, che evoca tanta sofferenza, questo signore cominciò a raccontare la storia di questa ragazza e a un certo punto si commosse, ecco, noi abbiamo capito, lo vedevamo lì piangere come un bimbo, abbiamo capito che in realtà poi era una storia che toccava un po' tutti allo stesso modo e a qualsiasi età, quindi quello è il ricordo più intenso. Wow, Marcia, Senti, ti ringraziamo veramente tanto per questo tuo intervento. Ci hai dato delle parole veramente profonde che ci hanno veramente fatto pensare e sono sicura che faranno pensare non oggi ma anche domani e anche dopodomani tutti i nostri radioascoltatori e noi in particolar modo. Grazie mille per la tua testimonianza. Grazie. E senti, salutaci tuo marito, ma dov'è? Ciao Matteo. Ve lo saluto, ci starà sicuramente ascoltando. Ah, ecco. Sta ascoltando, in questo momento non è qui con me. Va però. Bene. Marzia, venite a Bruxelles, venite a trovare. Saluta il mio capo, Marzia, saluta il mio capo. Che dovete sapere che l'unitassi Matteo era il mio capo. Ah, oltre ai compagni di mille avventure. Continuiamo qua lo curtiglio, continuiamo lo curtiglio. Va bene, allora ciao Marzia. Ciao Marzia, grazie. Ciao, grazie ancora. E noi passiamo a una bellissima canzone proprio che si integra perfettamente col tema di cui stiamo parlando, Si può dare di più di Umberto Tozzi e Gianni Morandi. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Rieccoci in studio amici, eccoci qui. Allora Rossella, dammi un attimo di tempo che ricordiamo ancora una volta il numero di telefono. Telefonateci allo 02 345 2656. Ma se chiamate dall'Italia, invece dello 0 iniziale dovete mettere +32, che è il prefisso del Belgio. Grazie mille Tiziana. Allora salutiamo i nostri amici che ci stanno facendo segno su Facebook. Tanti saluti a Carla, a Roberta Castro, a Michelangelo ed Elena Capobianco e ancora a Martina. Ciao ragazzi! Roberta, ciao cuginetta e ciao a tutti gli altri, ciao amici. Ciao, e io ciao. Ne volevo anche approfittare, volevo approfittare dell'occasione per fare tanti tanti auguri a una mia carissima amica Mary, che oggi fa il compleanno. Auguri Mary! Tanti auguri, tanti auguri. E qua mi raccomando, scriveteci sulla nostra pagina Facebook Rossella, Tiziana e Leandro Neir. E qua riceviamo, abbiamo già ricevuto un sacco di commenti, un sacco di commenti da Angelo che dice uè, da Carla e ricordo da Elena che dice Giampaolo santo subito. E allora ragazzi, rimettiamoci un attimo composti, perché sì, dai, questa chiamata di Marzia a me proprio mi ha toccato, lo devo dire, mi è proprio piaciuto molto questo modo in cui ci ha raccontato la sua esperienza, quindi da volontaria e poi a un certo punto da pellegrina, un po' il cambiamento che ha vissuto, la profondità umana di questa esperienza. E abbiamo con noi appunto in studio non tanto un volontario ma anche un pellegrino che è andato a Lourdes. Cecilia, io lo voglio capire, ma che c'è di così speciale a Lourdes? Allora, intanto buonasera a tutti e vi posso raccontare quella che è la mia esperienza a Lourdes, perché sono andata. Sì. Io nel 2009, io ho sempre fatto volontariato. E nel 2009 ho scoperto di avere una malattia per cui la mia situazione è cambiata più o meno rapidamente. Mi sono molto avvicinata per tantissimi motivi che non sto qui a raccontarvi perché non abbiamo il tempo. Comunque mi sono molto avvicinata molto di più alla fede, a Dio e soprattutto ho riscoperto la figura della Vergine Maria. Nel 2011, dopo un 2010 molto molto molto difficile per me, travagliato, io ho sentito il bisogno profondo, nato forse un po' per caso, io sentivo di dover andare a dire grazie. Questo è stato il motivo per cui io ho deciso di partire per andare a Lourdes, e l'ho scoperto durante una messa in cui un prete durante la predica ha sottolineato l'importanza durante l'estate di riappropriarsi del tempo e di fare un po' di silenzio. E per caso io sono, per caso o non per caso, ho trovato un volantino che diceva proprio che sponsorizzava o promuoveva questi viaggi a Lourdes. E mi sono detta perché no. E così quando sono tornata a Bruxelles, questo era Banneux, che è un altro luogo dove è apparsa la Madonna qui in Belgio. Esatto. E mi sono detta perché non cercare. E così ho trovato che la diocesi di Malines-Bruxelles organizzava il viaggio. Organizzava un viaggio a Lourdes e ho detto io vado. Vai, proviamoci. Non conoscevo nessuno, sono andata da sola e ho detto perché no. E mi ricordo che la cosa divertente è stata che ho chiamato mia madre e le ho detto sai, io quest'estate vado a Lourdes una settimana e mia madre mi fa: no, vai a Lourdes, ma ci stanno tutti quei malati. Io al telefono con mia madre le ho detto: mamma, cioè, fino a prova contraria sono malata pure io, per cui pure io ho il diritto di andare a Lourdes. Poi insomma la cosa è stata, mi ha detto: ah sì, è vero, poverina, l'ho presa un po', poi insomma è sempre l'hai una spiazzata, mamma, sì, un po' spiazzata. Certo. Però io sono andata a Lourdes perché dovevo dire grazie, e sentivo che però per dire grazie non bastava la preghiera della sera, dovevo mettermi in cammino, no? Perché sì, poi la fede è un viaggio, è un viaggio che va vissuto, in cui però non puoi soltanto stare seduto e dire prima o poi farò. Quindi io ho proprio sentito che dovevo andare. E così mi sono imbarcata in questo viaggio senza conoscere assolutamente nessuno, quindi all'inizio ero completamente spaesata, poi erano comunque tutti belgi, per cui avevo delle difficoltà anche un po' linguistiche. Certo, ad esprimerti un po', sia farti capire, però immagino che in realtà su quel treno si parlasse un po' la stessa lingua, a prescindere dalla provenienza. Soprattutto c'era un grandissimo amore, questo andava in due direzioni, è una cosa che a Lourdes si respira molto. C'è tanto amore che viene donato, che tu sia un malato, che tu sia un volontario, c'è molto da dare gli uni gli altri, e viene fatto senza condizione, senza interesse, semplicemente. Lato migliore, sì. Il lato migliore della persona umana, secondo me, in un posto come Lourdes emerge in tutta la sua pienezza. È quello che discutevamo anche un po' prima fuori onda. Secondo me il più grande miracolo di Lourdes è la conversione. Cioè, secondo me intanto si va a Lourdes perché si è chiamati ad andare a Lourdes. Si può vedere come una chiamata oppure no, ma secondo me intanto si va a Lourdes perché si è chiamati. Giampaolo è andato perché era curioso. Sì, Giampaolo era curioso, però chissà se la curiosità parte sempre da un piccolo avvenimento. C'è sempre un pretesto. Insomma, c'è sempre un pretesto che ti fa diventare curioso. Andare ti dà un po' la motivazione, poi quella materiale per andare. È chiaro che da dentro c'era già una volontà, c'era una predisposizione, sì, di voler scoprire, voler andare, voler andare a vedere. Ma quello che mi faceva riflettere di questa cosa, Cecilia, che ci raccontavi, che poi si ricollega appunto a quello che ci diceva Marzia, qual è, tu hai detto che a Lourdes, appunto, tua mamma ha detto: ah, ma vai là con tutti sti malati, però appunto, ma chi è il malato e chi è la persona che non è malata? Chi è che non è veramente, io mi chiedo, chi di noi non ha veramente bisogno di qualcosa, a prescindere dalla sua condizione fisica? Ed è un po' quello che ci diceva Marzio, dice: in realtà a Lourdes ci vanno anche se i non credenti, perché questo posto ti dà delle risposte, ti permette di entrare in una profondità, forse, in uno stato spirituale che ti trasforma, quello che dicevi tu, che è la conversione, quindi la conversione di questa trasformazione profonda umana. Guarda, secondo me, non so come spiegarti, perché Lourdes è un posto strano da descrivere, perché è proprio un posto che ti entra nel cuore. Secondo me tutti hanno qualcosa da imparare andando a Lourdes, e non è detto che si trovino delle risposte, ma si trova la serenità con cui affrontare le domande, che è una cosa molto molto molto più particolare. Questa è bellissima, questa la scrivo. Grazie sul comodino. Adesso finisco sulla smemoranda. Sì, infatti qua stiamo prendendo appunti a ruota qui mo. No, però è realmente così, perché poi c'è chi magari va spinto dalla curiosità un po' di voler vedere, no, il miracolo, però io penso che i miracoli possano essere sia paragonati un po', ci sono quelli che sono paragonabili a dei fuochi d'artificio che nella notte illuminano tutto, fanno rumore e si vedono e sono brillanti, ma un miracolo può essere anche una farfalla, un bruco che diventa una farfalla, che lo fa in silenzio, lo fa per poco tempo, non si vede, però resta un miracolo, e resta una cosa che comunque succede, ma succede nell'ombra. Io ho visto e ho sperimentato tanta sofferenza, io ero la prima a soffrire, perché è chiaro che si va a Lourdes, perché comunque io almeno sono andata con una grande sofferenza, ma con il desiderio di dire grazie, e ho respirato tanta sofferenza, perché c'è, è innegabile. Ma c'è un amore, c'è una gratuità dei gesti, che diventa, è come se il peso che ognuno porta a Lourdes diventasse diventasse più sopportabile perché lo si trasporta tutti insieme. C'è sempre qualcuno che ti chiede se hai bisogno di una mano, cosa che nella vita di tutti i giorni, per esempio, non succede. No. Che se ti vedono con una stampella, non è detto. A Lourdes c'è sempre qualcuno che, o semplicemente qualcuno che ti vede piangere, ti fa una carezza e non dice niente, perché anche il silenzio è una cosa che si apprezza tantissimo in un posto come Lourdes. E secondo me, poi tornando, per ritornare al discorso del viaggio, poi il viaggio di ritorno diventa, cioè per me è stata un'esperienza favolosa, perché poi bene o male conosci tutti dopo una settimana di condivisione molto intensa. E secondo me Lourdes è un posto nel quale o torni nel giro di poco o sai che tornerai. Ed è comunque un luogo che tu porti nel cuore. Dovunque tu vada, tu sai di avere Lourdes dentro di te. E perché è, non so, Giampaolo, qual è stata la tua esperienza? Sì, ma no, per me è veramente così. E continua a dirmi: devo tornare. Io posso condividere pienamente quello che dice Cecilia. Cioè, Lourdes è un posto che una volta che ti entra nel cuore, no? Poi lo senti un po' come casa. E lascia molto più di qualcosa, perché diventa casa tua. È tanto lontano da casa, ci vai magari raramente, ci stai per poco, però quando arrivi là è la stessa esatta sensazione di quando sei stato in giro sotto il maltempo in posti lontani dove nessuno parla la tua lingua, e tu torni là dove invece tutto ha un suo senso, tutta una sua dimensione, e tu ti senti veramente a casa. Che belle parole, ragazzi. Io sono veramente ammutolita davanti allo splendore di queste testimonianze di questa sera. Poi la sera, se posso aggiungere qualcosa, prego, Lourdes, chiaramente questo si capisce benissimo da quello che stiamo dicendo. Lourdes è un posto dove comunque c'è molta suggestione. La suggestione va intesa comunque in tanti modi, in senso molto positivo, può essere anche in senso molto negativo. Però quello che a me piace ricordare è che comunque questa suggestione a volte ti porta anche a delle situazioni un po' divertenti. Sì, un po'... raccontaci un po' qualche aneddoto. Dai. Dai, vogliamo sapere un pochettino qualcosa di divertente. La bellezza di Lourdes è anche questa. Io ricordo tanti episodi divertenti, però in particolare ricordo una sera che eravamo a Lourdes con tutti, diciamo, tutta la squadra dei volontari dell'Unità Alsi e tutte le persone, gli ammalati, tra cui molte persone in carrozzina. Beh, molto brevemente cosa succede a Lourdes? Che insieme agli ammalati sul treno comunque partono molte persone anziane. Le persone anziane, quando vedono la disponibilità di carrozzine comunque immensa nelle strutture di Lourdes, che sono adibite per diciamo accogliere le persone a ridotta mobilità, praticamente cominciano a chiedere: ma senti, io sono anziano, sono stanco, ci sono le carrozzine, posso andare anch'io sulle carrozzine? Succede così che diverse persone anziane montano su queste carrozzine. Ebbene, una sera era successo esattamente questo. Ci trovavamo ad ascoltare in un salone una lunghissima e abbastanza noiosa, posso dire, orazione di un vescovo che era venuto lì, diciamo, ad accompagnare un pellegrinaggio. Anche quello succede, lo dobbiamo dire. Succede anche questo, sì, talvolta i discorsi possono essere anche tanto lunghi. La gente si è un po' appisolata, tra cui anche queste simpatiche signore, io ricordo sempre con affetto, che stavano sedute sulle prime file perché le carrozzine andavano tutte insieme, quindi anche queste signore, diciamo, accontentate un po' in questo capriccio divertente, messe vicino agli altri ammalati, secondo si erano un po' appisolate. Se non che nel bel mezzo di questo discorso, comunque molto monotono, il vescovo che stava parlando fece un sussulto: e noi a questo grido dobbiamo alzarci! E noi, queste signore che erano appisolate, si sono svegliate di colpo, si sono alzate dalla carrozzina, e noi eravamo alle loro spalle, e un mio amico accanto a me ha urlato: miracolo! E lì diverse centinaia di persone che assistevano alla scena, e potete immaginare l'ilarità generale. Che bella, bellissima questa scena. Questi episodi a Lourdes ne vedi veramente, veramente tanti. Queste scene da film che però là diventano realtà, vita quotidiana. Meraviglioso, ragazzi. Sentite, allora io volevo soltanto aggiungere qualche informazione pratica, perché per chi volesse fare un'esperienza del genere, a parte scriveteci sulla pagina Facebook e saremmo ben contenti di darvi più informazioni, però ecco, ci si può rivolgere alla diocesi di Malines-Bruxelles e chiedere appunto di fare un'esperienza. Perché no? Possiamo pure provarci, no? Oppure penso che se si vuole fare il viaggio dall'Italia, chiaramente che dall'Italia, scusatemi, sicuramente sì, trovate tutte le informazioni sulla pagina dell'Unitalsi, che è www.unitalsi.it. Lì trovate perché anche le informazioni da tutte le regioni d'Italia. Sì, sì, sì, ci sono sezioni in ogni regione, quindi potete trovare veramente la sezione o la sottosezione più vicina a casa vostra, benissimo, il responsabile a cui chiedere benissimo, informazioni. Benissimo. Ma io volevo farvi un'ultima domanda. Noi siamo partiti anche oggi dicendo che questa trasmissione si chiama I colori dell'anima perché vuole raccontare i vari aspetti dell'anima umana, dell'anima degli italiani. In questo caso ha voluto mettere in luce alcuni aspetti della vostra anima. Quale colore date alla trasmissione? Beh, io lascerei, io il colore ce l'avrei, io però ce l'ho lascerei pure, scegliere Cecilia. Però lasciamo scegliere Cecilia. Anch'io lascerei scegliere Cecilia. Oppure dobbiamo lanciare tutti insieme al 3 e vediamo che viene fuori questo colore. Deve essere, dai. Deve essere un solo colore. Sì. Un solo colore. No, perché mi viene in mente l'arcobaleno, non so Però l'arcobaleno sta racchiuso all'interno di un solo colore, no? Hai ragione, bravissima Rossella, pure io pensavo lo stesso colore. Forse sì, diamolo bianco questa sera, all'interno c'è appunto l'arcobaleno, ma il bianco racchiude un po' tutto. E allora è l'unità. Anch'io avrei detto bianco, perché bianco e blu sono i colori dell'unità, sì, bene, ufficiali. Allora adesso ragazzi, vi dobbiamo salutare, vi lasciamo con una canzone di Noah, Beautiful That Way. Ma prima, aspetta un minuto Rossella. Che succede? Che succede? No, volevo... Ci sono gli alieni, ce la piscono! Volevo chiedere a Giampaolo per quale motivo vogliamo mettere questa canzone. Sì. Veloce. È la canzone di Noah che Leandro sta mettendo in onda praticamente.